Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, l'ultima puntata della settimana. Allora, come sapete, buona giornata da Deborah Rosciani. Come sapete, questo è il periodo delle trimestrali, è il periodo dei consigli di amministrazione, delle assemblee degli azionisti chiamati ad approvare conti e bilanci delle società, e noi naturalmente monitoriamo soprattutto quelle quotate. Ma per alcune società ci sono questioni aggiuntive da affrontare oltre ai conti. Sotto i riflettori, e in realtà lo sono da diverso tempo per tante ragioni, ci sono le banche popolari, che in Italia contano oltre 1 milione di soci e quasi 10 milioni di clienti. In questo fine settimana sono fissati diversi appuntamenti assembleari organizzati in diverse città italiane, ovviamente perché le sedi sono differenziate, e pullman carichi di soci sono pronti a raggiungere queste città dove si svolgeranno le assemblee, pronti ad esprimere le proprie posizioni e i propri diritti. Domani Plus 24 del Sole 24 Ore dedica la copertina proprio a questo tema: banche popolari al voto 60.000 soci, il decalogo per far valere i propri diritti, i rinnovi dei consigli di amministrazione, la battaglia sulle deleghe. Allora, ci sembra magari, rispetto ai temi che affrontiamo sempre a Salva Danaio, magari un argomento un po' lontano da noi, ma io sono sicura che abbiamo all'ascolto molti soci di questi istituti bancari, per cui ci piacerebbe sentire anche la vostra opinione su questo argomento. Raggiungerete la città dell'assemblea della vostra banca nel fine settimana, poi vi daremo magari anche un calendario un po' più dettagliato e preciso. E allora, avete intenzione di far valere come i vostri diritti, come partecipate anche a queste assise? 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, e stamattina vi faremo chiacchierare. Sarà il tempo, non ne imbrocco una stamattina, Paolo Zucca. Buongiorno a tutti. Buongiorno, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, che ha coordinato questa copertina che è piuttosto articolata e piuttosto nutrita, molte pagine dedicate a questo argomento, perché c'è in ballo anche in questo frangente anche una delicata questione politica. Si è ritornata a parlare delle banche del nord per l'interesse di una grande forza politica italiana a far valere sempre di più il proprio ruolo, per cui anche questo è un aspetto che forse troverà spazio nell'assemblea del fine settimana. E poi Marco Fratini, giornalista, caporedattore della Sette, soprattutto autore con Lorenzo Marconi del celebre Vaffanbanca, seguito dall'altrettanto celebre Vaffancrisi. Marco, ciao, benvenuto. Grazie dell'altrettanto celebre, buongiorno a tutti. Però il vero cavallo di battaglia vostro forse è stato il primo, perché lo abbiamo ricordato tante volte, siete stati ospiti, come dire, la sua pubblicazione è caduta proprio nel momento più delicato della crisi finanziaria degli ultimi 3 anni, e poi naturalmente però anche Vaffancrisi ha avuto una grande fortuna. E poi ci collegheremo, anzi siamo già pronti, collegati telefonicamente con lui, con Franco Vecchi, presidente dell'Associazione Azionisti del Banco Popolare. Dottor Vecchi, buongiorno. Buongiorno a voi. E peraltro lo avevamo già avuto nostro ospite in qualità di presidente degli azionisti ed obbligazionisti di Alitalia, quindi un'altra fase sempre delicata e sempre comunque, dottor Vecchi, pronto a dare battaglia. 800 24 00 24, il numero ve l'ho già ricordato, ma se volete scriveteci al 349 238 6666. La borsa, situazione oggi molto interessante sui mercati azionari, che recuperano dopo i cali di ieri, e la notizia centrale della giornata è arrivata qualche istante fa: il premier greco Giorgio Papandreou ha annunciato il ricorso al meccanismo di sostegno europeo Fondo Monetario Internazionale. La notizia era già stata fatta circolare questa mattina, fonti di governo lo avevano confermata, nel giro di poco tempo appunto è arrivata la conferma. D'altronde l'attenzione per la situazione greca ieri si era appesantita notevolmente con la nuova bocciatura sui titoli di Stato appunto di Moody's, e poi Eurostat che ha rivisto a rialzo il rapporto deficit PIL. Insomma, situazione sempre più difficile, che si è tradotta sull'esplosione dei rendimenti sui titoli di Stato, un paese che per qualcuno è ormai sull'orlo dell'insolvenza. Speriamo che questo aiuto chiesto dal governo possa scongiurare nel brevissimo questa situazione. Abbiamo una situazione di rialzo in Europa molto differenziata, perché Parigi guadagna 0,5 punto, Francoforte più 1,22%, c'è stato l'IFO tedesco stamattina migliore delle attese, Londra più 0,7%, Milano invece fanalino di coda, guadagna appena lo 0,3%. A correre Buzzi più 3,70%, Bulgari più 3%, ancora Fiat più 2,62% e Saipem più 2,28%, STM invece meno 4% dopo i conti pubblicati e comunicati questa mattina, mercati ancora chiusi, Snam in ribasso di 1 punto, e il Banco Popolare, di cui peraltro parleremo stamattina meno 0,6%, recupera anche l'euro sul dollaro dopo lo scivolone che l'aveva visto ai minimi da un anno, adesso è a 1,33,09. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di stamattina, settimana piuttosto intenso per le assemblee degli azionisti delle banche popolari. Detengono più di un quarto delle filiali attive, hanno reti dislocate in tutta Italia e possono contare su oltre 1 milione di soci iscritti. Sono le banche popolari, istituti di credito di norma costituiti come società cooperative, che si distinguono dagli altri istituti bancari per diverse caratteristiche. Tra queste, il fatto che la maggioranza delle quote sia posseduta dai clienti stessi della banca e il tetto dello 0,5% che ogni socio non può superare nel capitale. Ed è proprio tra marzo e aprile che entra nel vivo la stagione delle assemblee di questi istituti, veri e propri momenti di raduno collettivo, che contano sulla partecipazione di migliaia di soci che si mettono in marcia per raggiungere i luoghi prestabiliti, per rivolgersi direttamente alla governance o ai membri del consiglio di amministrazione, chiedendo spiegazioni, chiarimenti, presentando lamentele sulla gestione o complimentandosi. I requisiti e le modalità per prendere parte all'assemblea variano da banca a banca. Ognuna ha infatti il suo regolamento. C'è Paolo Zucca che mi sta prendendo un po' in giro perché avevo forse un po' sottovalutato fra i nostri ascoltatori l'impatto del trattare questo argomento. Paolo, invece, che c'è? Vedo che c'è il centralino che sta scalpitando e stanno scalpitando molti ascoltatori che vogliono avere delle informazioni su questi appuntamenti. Magari qualcuno che non si è iscritto alla partecipazione. È una puntata popolare. Per cui c'è anche Marco, è vero, è una puntata popolare. Beh, se non sei iscritto innanzitutto è un problema perché doveva farlo nei giorni scorsi, quindi non può partecipare. Può seguire indirettamente i lavori. Noi abbiamo portato anche un decalogo su questo numero di plus proprio per evitare che i soci non riescano a partecipare a questo momento di democrazia societaria più importante e anche un po' per non farsi fregare durante i lavori. Ecco, tanto per usare un eufemismo, certo. Quante sono le assemblee previste questo fine settimana? Avete una cifra, ce le possiamo ricordare? Perché guarda, io ti ricordo soltanto le principali, che sono il Banco Popolare, 20.000 richieste di partecipazione, 20.000 è impressionante, un mezzo stadio. Si tiene a Novara quest'anno. Sì. Poi abbiamo... Perché ricordiamo che il Banco Popolare è il frutto della grande aggregazione fra Lodi e Novara, fra il Popolare di Lodi appunto e Novara, sì, per l'appunto. E si tiene quindi una rotazione, salvo in caso straordinario, dove si tiene invece a Verona. Poi UBI Banca, anche in questo caso un'aggregazione fra Bergamo e Brescia, e si tiene a Brescia. La Popolare di Milano, che si tiene ovviamente a Milano. Domenica, non domani, attenzione, domenica, non domani, ad Arezzo si tiene l'Assemblea della Banca Popolare dell'Etruria. Non ve le segnalo tutte, scusami, ma vi segnalo però Cattolica Assicurazione, che apparentemente è una compagnia, cioè è una compagnia di assicurazione che è anche una popolare, dove a Verona in questi giorni veramente c'è bagarre perché c'è una lista concorrente. E allora adesso andremo anche magari a questi aspetti non secondari evidentemente per alcuni ascoltatori che ci stanno chiamando. Volevo coinvolgere Marco Fratini perché le banche popolari sono degli istituti di credito che di norma sono costituiti appunto da società cooperative e si distinguono per la loro governance da tutti gli altri istituti bancari. Poi cercheremo di spiegare a chi non lo sa anche che cos'è una governance per una società quotata e per qualsiasi altra azienda, in questo caso è complessa. Sono però state banche considerate sempre molto vicine al territorio, anche se il valzer delle aggregazioni degli ultimi anni ha un po' scompaginato insomma le carte in Italia di questo settore bancario. E vai con il tormentone del radicamento sul territorio, uno dei concetti ormai che vanno più di moda. Ma in realtà uno a guardare le popolari, la prima cosa che si immagina, no? Innanzitutto quanto è bello il nome, popolare, perché poi il contrario di popolare in genere è impopolare. Poi credo che effettivamente un paese come il nostro, fatto di piccole e medie imprese, non debba andare a rincorrere dei modelli americani, no? Gli americani hanno le multinazionali, noi abbiamo le piccole e medie imprese, poi qualcuno le chiama PMI, quindi poi anche lì finiamo per non capirci nulla. Ma la realtà è che probabilmente il modello di banca, magari non sociale ma popolare, è il modello che più si accosta al nostro modello imprenditoriale, quindi parlarne bene è un po' parlare bene di noi. Poi non bisogna dividere le banche tra buone e cattive, probabilmente bisogna dividere le banche tra cattive banche e buone banche. Secondo me, ultimamente, anche con questi ultimi anni, questi ultimi mesi di crisi, forse il modello vincente, anche se poi i problemi li ha avuti, in questo sicuramente snocciolerà un sacco di numeri anche fra poco Paolo Zucca, io ho l'impressione che le popolari, insomma, abbiano avuto un bel merito nella difesa del nostro sistema, forse l'unico merito. Ecco, è molto interessante l'aspetto della partecipazione dei soci. E Paolo, voi tra l'altro nella copertina di domani raccontate anche di questa organizzazione di grandi pullman per molti soci, quelli che almeno potranno raggiungere i luoghi dove le assemblee si svolgeranno, anche se poi c'è questo aspetto proprio della partecipazione, quali ovviamente i soci che stanno a distanza non possono esercitare. È un punto tra l'altro molto caro a Franco Vecchi, che poi sentiremo. E insomma, che movimento, dicevamo, tu prima dicevi per il Banco Popolare 20.000 persone almeno che sì, parteciperanno, fatto questo calcolo con le nel richieste, senso quello di che voglio arrivare a dirti, e sono partecipate queste assemblee direttamente dai soci, sono molto interessati alla per vita delle banche, diciamo che sono soci, noi diciamo male che vada il dibattito sarà lungo e noioso, ma c'è un catering impressionante in genere anche molto buono, però in una vita fuori porta, sì, è una grande kermesse con delle tensioni. Però due cose volevamo dire su questo numero di plus, speriamo di averlo fatto. Uno, che ci interessa parlare del popolo che partecipa, il risparmiatore che partecipa al momento di vita societaria, non ci interessa l'intervista al presidente della banca. La seconda cosa che diciamo che è altrettanto importante, e magari qui Vecchi potrà darci un aiuto, che è ancora una democrazia imperfetta quella delle popolari, perché chi è più vicino all'evento è più avvantaggiato, chi è dipendente è avvantaggiato, molto spesso anche ci sono dei vincoli a controllare il libro soci, per cui dei soci esterni fanno fatica. Detto questo, è una fase di evoluzione. E questi sono i motivi, Paolo, per cui da tanto tempo si parla di riforma delle popolari, quindi magari di necessità di rendere un po' più un quadro omogeneo? Due passaggi delicati. Uno è il passaggio delle deleghe. In questo momento le banche popolari tendono ad avere poche deleghe possibili per il socio. Più si ampliano le deleghe e più il socio esterno, cioè non dipendente in quiescenza, può portare altri soci. Quindi si allarga all'esterno la partecipazione, che altrimenti tende un po' a stringersi. L'altra, che è affascinante anche dal punto di vista tecnologico, è l'assemblea telematica, la possibilità non solamente di vedere ma anche di votare, e credo che nel 2012 riusciremo a vederla. Questo è un tema, lo ribadisco, molto caro a Franco Vecchi. Vecchi, io la faccio intervenire, se ha ancora qualche minuto di pazienza a questo punto, nella seconda parte della nostra trasmissione, perché devo già dare la linea alla regia per il primo stop, la prima pausa. Sentiamo allora, visto che ho 40 secondi di tempo, magari la considerazione già di un primo ascolto, così poi riprendiamo tutto insieme nella seconda parte di Salvadanaio. Stefano dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno, socio della UBI Banca da più di 40 anni, sempre partecipato alle assemblee, molto bello, il catering dove si mangia molto buono, però vedo sempre il solito teatro che gira intorno all'assemblea, cioè presidenze tutti zitti, soci che fanno un po' interventi di interesse loro, corporativistici, perché magari sono rappresentanti sindacali, eccetera, eccetera. Alla fine, diciamo, la mia impressione è che la banca popolare, qualsiasi nome si possa chiamare, rimane sempre una bella mammella dove succhiare il latte. Questo lo vedo soprattutto per tante situazioni, ecco, il socio che non è né dipendente né aggregato a un sindacato di dipendenti non ha niente a che vedere con le popolari. Stefano, lei prende la parola in questa assemblea, visto che partecipa da 40 anni? Prendo la parola, intervengo. L'anno scorso ho fatto 5 minuti di silenzio alla UBI, proprio perché quelli che mi avevano preceduti li avevano massacrati abbastanza pesantemente su default, Madoff, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono stato zitto 5 minuti. Cioè lei ha preso la parola e con il microfono davanti è stato in religioso silenzio per 5 minuti. Beh, tante volte il silenzio vale più di 1000 parole. Lei è un mito. Grande ostruzionismo. È un mito, Stefano. Trova il nostro applauso di Marco, di Paolo Zucca. Grazie per la sua testimonianza. Riprende Salvadanaio questa mattina. Abbiamo anticipato, come ci capita di fare praticamente quasi tutti i venerdì o gran parte di questi, la storia di copertina di domani di Plus 24, che si occuperà delle banche popolari, perché questo è un fine settimana molto intenso di numerose assemblee dei soci e degli azionisti, perché anche qui poi bisogna fare anche una differenziazione di terminologia. Gli azionisti sono gli azionisti delle società quotate, Paolo Zucca di Plus 24, ci sono tante banche non quotate però, per cui però i soci hanno... Sì, in assoluto si può essere azionisti e non soci di una banca popolare, tanto è vero, per esempio la Popolare di Milano ha 100.000 azionisti e ha 50.000 soci, perché bisogna chiedere l'iscrizione al libro soci, quindi partecipare anche ai momenti di vita della benissimo società. Allora, Franco Vecchi è presidente dell'associazione azionisti del Banco Popolare. Dottor Vecchi, anche l'anno scorso eravate andati con un come dire, con una agenda un'agendina piuttosto nutrita di impegni da chiedere ai vertici di questa banca. Chiedevate in particolar modo l'organizzazione di un'assemblea straordinaria per apportare delle modifiche allo statuto della banca, e con diversi punti, tra questi per esempio un punto che abbiamo toccato in apertura di trasmissione: l'introduzione del voto a distanza e anche la possibilità di tenere assemblee in contemporanea in diverse città di storico, dite voi, radicamento del gruppo. È cambiato qualcosa dallo scorso anno? Siete stati accontentati in qualche cosa? Questa assemblea straordinaria c'è stata, oppure bisogna riconvocarla, bisogna richiederla di nuovo quest'anno? La richiederemo sicuramente quest'anno, perché non siamo stati assolutamente accontentati. Il voto a distanza per una banca che opera in tutto il territorio nazionale diventa elemento indispensabile, atteso anche il fatto che la possibilità di conferire deleghe è limitata ad una delega a non dipendenti, quindi a soci non dipendenti. Quindi ovviamente consideriamo soltanto il fatto che il socio che è dislocato in Sicilia per andare a Novara si dovrebbe sobbarcare l'onere del trasferimento. Per quello che ha detto il dottor Fratini, sono assolutissimamente d'accordo su tutti gli interventi, un minimo lo vorrei dire per quello che riguarda una fotografia delle banche popolari, quali erano e quali sono oggi, perché sono nettamente cambiate, soprattutto dimensionalmente, ma gli statuti sono rimasti gli stessi. Per diventare socio devo fare una domanda, e la domanda che devo fare è pure connessa al fatto che devo pagare un quid, devo rispettare delle regole, delle volte direi completamente assurde. Ho visto degli istituti di banche popolari che sono veramente allucinanti, e poi devo detenere, come il caso del Banco Popolare, e questa fu anche una nostra richiesta, di abolire questi lacci e lacciuoli, per utilizzare il termine dell'ex governatore Guido Carli, che impediscono l'accesso alla vita societaria a coloro che sono azionisti, perché azionista e socio nelle popolari sono due cose completamente diverse. So che voi c'è anche un altro aspetto sul quale state portando avanti una battaglia, cioè il ramo novarese che esprime i dipendenti, che per esempio non può votare in assemblea. Le faccio una modifica ai lato veronese, mi scusi, sì. E effettivamente questa la consideriamo una disparità di trattamento, perché non si capisce per quale motivo una componente di dipendenti del gruppo non può diventare socio e tutti gli altri sì. No, tra l'altro questo è un aspetto importante che ribadisce, che ci dà l'opportunità di ribadire ancora il quadro estremamente eterogeneo di queste realtà, perché Paolo Zucca per la Popolare di Milano invece la situazione è ulteriormente diversa, e qua c'è stata per esempio una contrapposizione molto forte in passato proprio fra i soci dipendenti, che esprimono una forza notevole in seno alla banca, rispetto invece al comitato dei soci non dipendenti, che reclamano e rivendicano un ruolo e un peso più forte. Sì, a Milano c'è il caso addirittura opposto, in cui oramai da diversi anni, per ragioni storiche della banca, le associazioni, l'associazione una sola prevalente dei dipendenti sulla scia dell'attività sindacale, controlla sostanzialmente la banca. Bisogna dire che però, per interventi di Banca d'Italia per maturazione interna, adesso sono 4 rappresentanti della minoranza non dipendenti. 800 24 00 24, io torno anche a ricordarvi il numero verde per intervenire questa mattina se siete soci di qualche banca popolare e siete già, non dico saliti su qualche pullman, pronti a raggiungere le città dove si svolgeranno nel fine settimana queste assemblee, ma magari non siete riusciti a farlo proprio per i limiti di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Ovviamente se si è soci del Banco Popolare, si abita, come diceva Franco Vecchi, in Sicilia, è abbastanza difficile che ci si possa organizzare in gran gruppo per poter raggiungere questo luogo dove poter esprimere comunque la propria posizione. Marco Fratini, adesso sento anche Sandro da Bergamo che è pronta ad intervenire, ma c'è un'altra diavoleria che è in discussione da tanto tempo, la chiamo diavoleria perché il nome di questa cosa nessuno lo capirà. Che cos'è il voto capitario? Beh, il voto capitario è una di quelle invenzioni molto italiane che forse resistono, non so se a buon titolo. Beh, il voto capitario è il voto per testa, non in ragione della quantità di azioni che magari uno detiene in portafoglio. Mi pare che ci siano anche dei limiti, una volta c'era lo 0,5% massimo di capitale che si poteva detenere. Però lo definirei una, diciamo, non solamente italiana, perché francamente il movimento cooperativo è molto forte anche in Germania. Ci sono parecchie realtà che si sono sviluppate sviluppate alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, era la forma cooperativa, collettiva quindi, di creazione del lavoro, e ha dato vita anche ad esempio al mondo delle banche di credito cooperativo che vengono dal mondo cattolico. Quindi diciamo una realtà abbastanza diffusa poi in verità in varie parti del mondo. Quindi questo voto capitario praticamente quale... Ma io non ragionerei tanto di voto capitario, peraltro insomma il modello poi vincente dovrebbe essere quello della banca sociale, ma ne parliamo alla prossima puntata. Io direi che il problema magari che io percepisco, no, da uomo della strada quando parlo di popolari, è sicuramente è direttamente conseguenza del voto capitario, sia la contendibilità. È chiaro che si tratta di banche blindate, questo non necessariamente deve essere percepito come un problema. Questo perché Marco Fratini e Paolo Zucca sono soci della stessa banca, uno ha 10 azioni, 10 quote, l'altro ne ha 100 ma esprime il voto per uno. È questo il principio questo del voto capitario, no? Assolutamente. Poi chiaramente ci perché sono delle varianti di prassi che sul campo allora, si riescono ad esperire. Per essere brutali, l'ho scritto anche un po' su Plus, eccetera. È evidente che se si organizzano i capi filiali di una banca, i capi area, con i loro dipendenti e i loro clienti, soggetti entrambi in qualche modo influenzabili, detengono il controllo per 10, 15, 20, 30 anni. Non a caso c'è una inamovibilità anche dei vertici delle insomma, banche. Insomma, non si schiodano mai. In quali banche, Paolo, questa è una situazione particolarmente evidente? Guarda, ti posso fare un esempio molto diciamo rapido, ad esempio UbiBanca, che è frutto della Popolare di Bergamo, così, presidente Zanetti, rispettabilissima persona, imprenditore, eccetera, ma credo che sia lì da almeno 25 anni, vado a occhio. E così altri casi, alla Popolare di Arezzo, cioè Etruria e Lazio, c'è stato un presidente arrivato fino a 87 anni, in genere poi c'è il passaggio fra direttore generale e presidente, quindi anche la Popolare due di generazioni, Sondrio, no? Anche la Popolare di Sondrio, Melazzini, personaggio prestigioso, storica. Però voglio dire... Sì, sì, no, ma infatti non è un ragionamento che attiene, come dire, alla reputazione... Però, ecco, magari può essere uno stimolo persone, anche per chi ci ascolta in questo momento, mi sembra che la presentazione di liste contrapposte faticosamente guadagna posti di minoranza all'interno del Consiglio di Amministrazione e potrebbe anche arrivare teoricamente a dei ribaltoni. Se però uno pensa a quello che è successo a Milano in tempi abbastanza recenti, vuol dire che insomma ce lo puoi riepilogare è... Marco, ce lo racconti di nuovo cosa è successo a Milano, se lo ricorda meglio Paolo, che Paolo, questo è più milanese di me, io sono un po' più del sud. Voglio soltanto ricordare appunto che 4 esponenti su 18 del consiglio di amministrazione sono ora rappresentanti della minoranza ed è una percentuale notevole, 4 su 18 frutto del lavoro ovviamente di soci non dipendenti ma anche di qualche tensione interna all'organizzazione sindacale e anche del pressing di Banca d'Italia e della Consob perché ci sia reale democrazia all'interno dei popolari. Allora, sentiamo Sandro da Bergamo adesso. Sandro, buongiorno. Buongiorno, ma io sono un socio del Banco Popolare, verrò domani a Novara. Sono abbastanza in linea con l'intervento del mio concittadino di prima per UbiBank, perché vedevo prima gli interventi di De Vecchi e di altra gente che erano tutti allegri, no? Parlavano di catering. No, probabilmente non hanno comprato le azioni del Banco Popolare come le ho comprate io a 19 euro, adesso valgono 2 euro grazie alla governance della banca. Allora, tra l'altro, sì, diciamo che la storia del Banco Popolare, intanto se ripartiamo dalle origini, Popolare di Lodi, Fiorani e quant'altro, questa grande aggregazione che in qualche maniera ha voluto anche un po' cercare di tirarsi via di dosso tutta questa storia che non è stata particolarmente felice, poi gli è scoppiato Marco, il caso Italise per esempio. Cioè pensare in grande non significa per forza aggregarsi, cioè significa che chiaramente il modello si può, se vuoi, moltiplicare, ma magari migliorando il rapporto con il cliente, con il socio, ma non necessariamente uno deve creare una grande banca popolare per essere accreditato nel sistema. Io personalmente credo che il livello dimensionale non interessi, a me non interessa tanto la quantità quando si parla di banche popolari, ma preferisco guardare la qualità, ammesso che ce ne sia ancora, perché come abbiamo detto poco fa il modello fondamentalmente ha retto, ma è un modello vecchio, ci sono delle cose che sicuramente non vanno, se ti vogliono fregare in assemblea ti fregano, però il concetto secondo me è ancora molto valido, perché poi noi italiani secondo me siamo più vicini a un modello di banca popolare che non a un modello di banca, di grande banca commerciale, senza fare nomi. Una molto grande, molto, molto infatti. Franco Vecchi, volevo ritornare a lei perché parlavamo prima delle vostre richieste di convocazione di assemblea straordinaria per apportare delle modifiche allo statuto, una maggiore partecipazione per i soci che naturalmente abitano lontani, che non possono prendere parte all'assemblea, e poi abbiamo sentito la testimonianza di questo ascoltatore che è ben scontento per altri aspetti, il valore di un titolo che probabilmente non esprime magari una corretta corretta valutazione, perché le banche sono state ovviamente prese d'assalto dal mercato negli ultimi anni per tante altre questioni, ma insomma avete anche queste perplessità fra i vostri azionisti, quella che ci ha rappresentato il nostro ascoltatore di Bergamo? Innanzitutto vorrei rispondere all'ascoltatore che io non penso al catering perché non mangio mai. Ma no, ma non si riferiva a lei, perché abbiamo fatto noi questa battuta, no, Presidente Vecchi. Eravamo noi mangioni. Sì, l'altro sì. Discorso è sicuramente, io le ho in carico a 25 euro, ecco. Immagini un po', per cui il discorso è lo scontento è fortemente presente. Perché? Perché chiaramente ci sono queste situazioni, però voglio dire... Si possono fare delle cose, ma gli interventi che mi hanno preceduto di Fratini e di Zucca hanno ben rappresentato la cosa. In una banca il presidente è andato via che aveva 80 anni. La troppa democrazia nelle popolari, e comunque sia quasi sempre, dà frutti assolutamente contrari. Non è detto che perché domani vanno in assemblea 20.000 soci, e confermo la cifra, non per questo l'assemblea sia totalmente partecipativa. C'è un po' il rischio del culto della personalità quando si tratta di strutture così legate al territorio, Paolo, alla gente. Noi infatti la definiamo democrazia imperfetta per questo, perché forse è anche finta democrazia. Però, ripeto, con la presentazione di liste alternative, io credo ci sono gli elementi di competizione, non dico di contendibilità, ma di competizione interna. Popolari in assemblea nel fine settimana e pullman di soci. Ma tu sei pop o rock, no? Perché... Io sono rock e lo sai, perché mi conosci da un sacco di anni, sono molto rock. Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666, sono correntista e... specifica azionista della Popolare di Milano. Ho chiesto un preventivo per un mutuo un anno fa e non ce l'ho ancora adesso, a parte che voglio dire, magari lui potrebbe anche insistere, perché un preventivo non vedo perché non glielo debbano fare, ma i miei due interlocutori hanno finito la carta, ci sono stati tanti problemi. Però, essendo un azionista, può prendersi la briga, gli suggeriamo questa cosa che non so se lui la reputa stravagante, ma potrebbe partecipare, Paolo, in assemblea e lamentarsi anche di questo? Ma assolutamente sì, prima deve diventare socio, ripeto, la differenza azionista e socio. Ecco, magari poi lo spieghiamo, questo vademecum ancora meglio di come non abbiamo fatto nella prima parte. È molto semplice, tu una volta che hai delle azioni, ci sono dei minimi ma sono assolutamente potabili per ogni famiglia, per ogni risparmiatore, tu puoi chiedere di essere iscritto al libro soci. Da quel momento, oltre ad avere i diritti di capitale, vengono definiti, hai i diritti partecipativi, cioè di partecipare la vita collettiva. Però c'è una clausola di gradimento, cioè devono darti l'ok? Sì, esistono così, però sono sempre meno diciamo così sbarramenti, perché Consob e Banca d'Italia non vogliono questa clausola di gradimento, o l'hanno fatta togliere del tutto, è sostanzialmente inapplicabile. Quindi direi che si può essere iscritti tranquillamente, ci saranno forse dei casi marginali in cui questo non avviene, ma in assoluto ci si iscrive a libro soci, dopodiché chiedendo appunto il biglietto per tempo, si partecipa all'assemblea, si chiede di poter intervenire e si racconta anche il proprio caso, lo si fa anche verbalizzare. No, si perché vota tu anche in qualità di azionista, se vi comportate così con tutti i clienti come vi siete comportati con me, allora il titolo, quando potrà andare meglio, potrà anche insomma magari esprimere altre perplessità. Magari direttore generale o capo filiale magari avrà un minimo di preoccupazione. Ho visto che nel vostro decalogo per la partecipazione all'assemblea suggerite anche di munirsi di statuto, quindi di stamparselo prima di arrivare a queste assise. Quindi anche andare... loro comunque, con quel regolamento assembleare, soprattutto averlo già letto. Averlo già letto, perché durante l'assemblea capirlo è un po' più difficile, ecco, però, un'altra cosa. È uno dei problemi. Però... in genere chi ha comunque una vita partecipativa così intensa come il nostro, in genere vanno belli pronti sono e preparati, scafati, ecco, infatti. Io mi ricordo volano di fischi, volano assolutamente, c'è qualche rottura, diciamo, dello schema democratico. Poi nella sostanza, ma i lavori molto lunghi affaticano chi deve rientrare più lontano, chi ha altre cose da fare, quindi diciamo poi i giochetti si possono fare ugualmente, però in termini diciamo così ideali si dovrebbe essere tutti sulla stessa linea di partenza. Sentiamoci Antonio da Piacenza adesso. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ci dica. Ho sentito, come spessissimo mi accade, la vostra radio e la vostra trasmissione, e così una testimonianza: le banche popolari sono secondo me una grandissima risorsa, e noi abbiamo una testimonianza pratica a Piacenza con la Banca di Piacenza, o Banca Popolare di Piacenza, ma si chiama Banca di Piacenza. Io so che, sentendo parlare della Banca Popolare alias Lodi eccetera, mi ricordo anni fa che qui da noi si parlava di una possibile incorporazione Banca di Piacenza, Popolare di Lodi e Popolare di Cremona. Il nostro presidente, nostro nel senso che io sono un piacentino, sono orgoglioso delle nostre cose, il nostro presidente è l'avvocato Corrado Sforza Fogliani, che, ah, è, anche sì. che è anche presidente di Confedilizia. Sì. E io direi che è stato fino ad oggi un condottiero e un capitano della nave in modo eccezionale, perché la nostra banca veramente potrebbe essere citata come esempio da seguire. Ma da io penso altre. Che se il presidente Sforza Fogliani la sentisse, la prenderebbe come testimonial. Comunque, Antonio, io la ringrazio e quindi. Ma no, vanno di moda, peraltro, gli spot delle popolari. Con testimonial. E vabbè. Allora, grazie ad Antonio. C'era un'altra considerazione dell'ascoltatore al 349-238-6666 che dice, sempre tornando a questa parolaccia che abbiamo detto prima, il voto capitario. Ma secondo voi è ancora compatibile, viste le dimensioni di alcune banche, il voto capitario? Abbiamo detto frutto di grandi aggregazioni che per il momento dovrebbero essersi fermate, non so cos'altro ci sia ancora da aggregare in Italia nel settore bancario. Non è pensabile un intervento di autorità per cambiare? Nell'ambito della riforma delle popolari si parla anche di questo, Marco, mi pare sì, di no, sì. No, ma se ne parla, però io dico, prima di cambiare le popolari, cambiamo le altre di banche. Ecco, dimmi cioè, un po'. Cerchiamo di mettergli dentro un po', vorrei dire, un po' di sale in zucca? T'offendi, Paolo? Assolutamente. No, cerchiamo di avere delle banche un po' più vicine a questo benedetto rapporto con il cliente, perché poi quando fanno i convegni, i seminari, queste grandi banche commerciali nate nel verbo di McKinsey raccontano tante cose, che loro sono vicine ai clienti, fanno tanta pubblicità simpatica, la affidano ai comici, poi però nella realtà dei fatti sto benedetto radicamento del territorio di cui tutti parlano, no? Questo benedetto tormentone che ormai è un po' sul filo del federalismo, per non dire proprio di una parte politica ben specifica, beh, quello non c'è. Cioè, una grande banca commerciale, solo per il rapporto con il cliente, cambia il direttore ogni 6-7 mesi. Una banca popolare magari lo fa meno, con una frequenza inferiore. Cioè, ci ma sono nell'ultimo delle anno in cui comunque ne abbiamo parlato spesso anche con te, Marco, anche e in poi altre si cambia magari anche il voto capitario, perché ormai è un po' sì, anacronistica. Sì, ma a parte questo, voglio dire, abbiamo visto che per interrompere il circuito del credito da dare alle aziende e a dare ai piccoli negli ultimi 2 anni, molto spesso qualche banca ha utilizzato anche lo stratagemma del cambio molto frequente di direttore di filiali, che così ci mette un po' meno la faccia. Come è successo Ford, anche in questo fuggitivo, sì, scappano sempre. In questo settore pure è successo, Paolo? Sì, sì, soltanto una battuta, il nostro ascoltatore dice una cosa corretta, cioè quando si arriva dimensionalmente a certi livelli bisogna riflettere se il voto capitario è la formula più efficace. Questo perché molti investitori istituzionali, cioè grandi fondi italiani e internazionali, sono entrati nel mondo delle popolari, ma scoccia un po' loro avere investito milioni e milioni di euro e trovarsi a votare esattamente. Beh, a succhiare la mammella, come diceva l'ascoltatore. Comunque prima. A votare, diciamo, come il risparmiatore che ha invece 100 azioni. Però francamente io in questo momento non vedo una cultura anglosassone così forte, quella dei fondi di investimento, e quindi non credo che ci saranno delle riforme così allora alte. La nostra trasmissione è arrivata al termine, mi mancano una cinquantina di secondi, manciatina di secondi, lo so che vi siete divertiti e affezionati. Un'ultima raccomandazione per chi magari va all'assemblea per la prima volta? Non ce la vuole dare nessuno? No, no, Paolo, volentieri. Ti porti plus domani insieme allo statuto della banca, che magari sa quello che deve fare. Sì, e cercare di capire esattamente come funziona quella giornata, di viversela con serenità, non dico di partecipare al dibattito, ma se lo sente lo faccia pure. Mangi pure, perché si mangia pure, non vorrei proprio ridere soltanto su questo momento, è un momento collettivo. Oltre all'agendina è l'unica cosa che si porta a casa. Gli lascio fare, perché sembrerà che me ne sia dimenticata. Poi Franco Vecchia, anche un'ultima raccomandazione. Presidente Vecchia, Associazione Azionisti Banco Popolare, sì. Ma guardi, io una raccomandazione, a parte veramente la battuta, quella pure di mangiare, perché sono argomenti talmente grandi che e complessi che richiedono una trattazione forte. Sicuramente quella di far presente nell'assemblea tutte le proprie necessità, perché questo è il punto di forza delle popolari, e infatti, di poter parlare. Come per esempio abbiamo detto prima, per la persona che non riesce ancora ad ottenere un preventivo per il mutuo, che vada lì a presentare il suo caso, che magari può essere rappresentativo di quello di tanti altri. C'era un ascoltatore che non riusciamo a far intervenire, che voleva sollevare il tema dei disturbatori delle assemblee. C'è chi lo fa di professione, è un fenomeno diffuso di cui si parla poco, e sì, una cosa carina, non ci riusciamo stamattina ad affrontarla. Io saluto Paolo Zucca, Franco Vecchi, Marco Fratini, Vaffanbanca, Vaffancrisi. Siete pronti anche con il blog, se non sbaglio? Sì, sì, è in arrivo il blog su Blogspot, anche un sito www.vaffanbanca.it, e insomma io consiglio domani, nei prossimi giorni, nel fine settimana, di portare magari una copia di Vaffanbanca, se va male la tirano su e ci fanno esatto, anche un po' di pubblicità. Benissimo, grazie a tutti. Salvadanaio torna lunedì, buon fine settimana.